era corremato, squalisciato l'apparecchio. Vabbè. Porca miseria, c'è caldo oggi, eh. Io sono in pantaloncino e maglietta, vorrei stare in perizoma. Magari ricorre da donna con la spaccatura dietro. No, sentivo il respiro da fumatore. Il respiro? Ma adesso? Ma io non ho premuto respirando. Qua c'è un altro. No, lo so, è in apnea. Vabbè. Sì, oggi ha caldato rispetto ai giorni scorsi. Poi ho fatto quell'operazione ieri, ascoltandomi con l'altro apparecchio in cuffie, però non mi sono voluto spingere più di tanto perché non mi fidavo, non volevo andare oltre. Ho cercato il punto più vicino possibile di chiarezza, ma senza oltrepassare, se no poi devo tornare indietro di nuovo come... E poi lì non è indicato, c'è questo menu con dei numeri, tre numeretti, ma non ti dice di quanti hertz si sposta per ogni numeretto, ogni hertz, ogni step, no, che muovi. Quello lì è ovvio. Però quindi l'hai portato un po' più su, dai. Sì, poi vabbè, non... Così non viene bene, nonostante poi la cuffia, sai cos'è la cuffia? Sentivo solo il lato destro, perché non ho più il misero adattatore da mono a stereo per le cuffie, quello da 3.5, da mono a stereo. Una volta li compravo a pacchi di Cineradio, tutti smarriti, non ne ho uno, è incredibile, eppure devo cercare. Buonasera Gianni, ciao. Ciao Gianfranco, ciao Marco, non so poi se ci sia altre persone perché è acceso adesso. Ciao Gian, ti sei preso un periodo sabbatico, non ti sento da un bel po'. Eia, buonasera anche a te. E così così ne approfitto e collego quella radio lì. Quando scalda, perché poi andrà portata in temperatura, si può fare una prova rapidissima però. Comunque si è centrato anche in ricezione e adesso proprio col clarifier verticale di quella Linco ricevo bene le stazioni. Ho ascoltato qualcosina in 10 metri, qualcosina in 27, in 10 metri mi fido di più però perché saranno radioattori, avranno roba più seria. Vai Gianni, dai, mi assento un istante che attacco quella radio. No, sono andato là per salutarti, sono occupato con tuo figlio, vai. Non posso entrare, c'è problemi, quindi no, ho altre cose da fare. È brutto? Va. Mi già, sei l'unico che ancora mi ha dato il controllo, che ho fatto delle modifiche. Quando sto arrivando lì? Fondo scala. E questo è Alvaro, questo è Alvaro l'apparecchio, eppure c'è fondo scala. Cos'hai messo? Falo molto, molto, molto più alto. Cosa altro non sei uscito? Antonio? Fanculo, mi si è spostato. Ho detto il palo più alto. No, Antonio, non stai uscendo. Là. Mi si è cambiato di canale. Ah, che antenna hai messo? La solita? Pre quella però l'ho alzata di un bel. Fondo scala, zio. Tu pensa che questo apparecchio è anche rimito, dà due segnali in meno di quello che deve dare. E se fondo scala ha tutto al massimo. Avanti Gianfranco, buonasera. Sì, buonasera, sono un attimo impegnato, rispondete. Sì, va bene. Alto Vivi. E K, amico, quando vuoi venire lo sai, io la tengo sempre qua, tanto non toccano nulla in casa, non toccano niente, capito? Quando vuoi venire per quella cosa? Non so ma che dettagli. Già ti telefono. Manda un messaggio e poi vediamo, quando posso, Quando posso, tra l'altro sono impegnato in questo periodo, sto facendo le cose urgenti. Gatto, quando te lo dico, no, non c'è problema, ok già. Già ti mando il messaggio dopo che adesso sto uscendo. passeggiata, dai. Ci sentiamo. K, come ho aumentato un po' dall'ultima volta? Da giorno alla notte. K, non si muove nemmeno di stazionaria, è a zero. Va bene, ti dico. K, dai. Maestro, un pochettino. Dai, se ci siete vi contatto dopo. Già ti mando il messaggio, te lo dico. Ehi, anzi, ci sentiamo. Ok. Ciao Antonio. Ciao Marco. Ehi, dai, buona passeggiata. Fai passeggi anche da parte mia, dai. Che oggi mi stavo facendo invece un'overdose di Star Trek. Sul canale, canale 49 forse, boh. Vai Gianfranco. Appagappa, dai, continuate. Ehi, ma Gianfranco forse ha cambiato, oppure ha chiuso o è al telefono, dai. Todos muertos. Ci ha bisogno, due. Come già? Ho detto, io ci sono e tu. Ehi, col corpo, con la testa è altrove, la testa è altrove, sto pensando che devo fare quei aggiornamenti importanti a Windows, per carità. Va bene, Gianfranco poi si è sentato, niente di che, dai. C'è stata pure la temperatura, va? Io ero al mare di oggi, c'era una giornata estiva, stava benissimo, l'ho fatto il bagno 3 volte. Sì, sì, bella giornata, bella, 29 gradi c'erano all'ombra, ufficiali qua di ilmeteo.it, poi non so, io non sto più andando, io ho tolto anche la roba dalla macchina, ho tolto la spiaggina, gli ombrelloni, non ho più voglia. Se ne parlerà il prossimo anno se ci arrivo. Sì, no, la buona, che vuol dire di arrivo. Ma io non mi sono arreso ancora, e ti spiegherò. Se mi chiama al telefono ti spiego. Ehi, ok. Gianfranco c'è ancora, vediamo se è rientrato. Comunque immagina quello che ti ho detto tempo fa, quello, per quello che non sta entrando. Il merlo maschio, già nel caldo. Quindi sono impegnato al 100%. 100%, come diceva, cosa? Non lo dice ancora. Abatantono, che era quell'accento bruttissimo. 100%. Sì, ho capito. Avevo già capito che era Abatantono, che stai facendo. Ma cosa hai comprato? Un apparecchio nuovo? Dipende dall'apparecchio, hai visto qualcosa, hai sentito qualcosa? No, non ho visto, non ho sentito nulla, ti sto dicendo che non sta entrando. No, vabbè, questo è la Linco. Ah, è l'ultimo che hai preso questo qua. No, l'hai acceso così perché, vabbè, sono libero 5 minuti, dai. Sì, non c'è poco traffico, c'è più gente al 23, prima, poi in PMR anche. Stavo facendo prove tecniche di microfoni, eccetera. In PMR? Ja. Oh, yeah. E vabbè, là. Si è sparso un po' la gente, quindi quella è la ragione. Ho chiesto per chiudere, mi sono entrato solo per salutarvi, sono molto stanco dal mare. Io adesso mi sbaglierei, ma devo portare il Tyson, mi devo cambiare e portare il Tyson, perché al mare non me lo porta, perché poi non stai in pace, devi stare attento a lui, un casino, qualche rilassato e poi niente. E poi non in tutte le spiagge li vogliono i cani, boh. Vabbè, se devi far roba falla, io poi computer due cosette, poi stanotte si vedrà, televisione oppure un'uscita, vedo cosa fare, dai. Comunque per i miei gusti troppo caldo, dai, stava meglio con la pioggia, col freddo di 2 settimane fa, eccetera. Marco, io ho comprato un bellissimo ombrellone che ti fa un po' di ombra. Bello grande, c'hai i tiranti con i cavetti per le gambe, per non volare, è tutto fatto in alluminio, cazzo, bellissimo, le stecche grosse, una cazzata l'ho pagata dal discount della... anche vicino a casa, Vittorio. Si è andato dal dottor Rodaio. Rodaio. Chi è, Antonello? Ciao, ciao. Ciao Antone, siccome sono smettere a LED, vedevo 9 più 10, ma non sei a casa, no? Così? Sì, sono a casa, sono a casa. Sto usando ZX40. Ah, però col microfono che mi hai detto, quello che esce bene. Cioè esce, certo, 1000 anni luce distante dal mic originale. Positivo. Eia, vediamo se Gianfranco è rientrato. Eia, niente. Niente. No Gianni, saluto neanche a te. Non vi piace lecca? Adesso lo metto anch'io. Lecca. Non so se si sente già. Qua non mi accorgo di niente comunque. C'è. Poi sarà regolato veloce minimus. No, c'è regolato anche questo. Questo tira fuori 2 watt e mezzo, questa parecchio qua. L'unico microfono è questo qua che va bene, non ce ne vuole altro, se no l'M300. Ecco perché ha una tonalità calda col mic. Sì, è tutto chiuso la velocità, quindi si mi innesca, però porca miseria, devo stare attento. E l'autoascolto a me non piace, poi è giusto per capire. Adesso rallenta. 1, 2, 3. Bello, adesso lo posso anche spegnere definitivamente. Pagava. Ha voglia. Già esce ancora. Questo è. Da utilizzare in macchina questo. Lavandino. E io l'ho usato ancora questo autoascolto. Ho tolto l'eco, non ho tolto l'autoascolto. Mamma mia, questi menu. Ti dicevo, io una volta l'ho usato in macchina, ma mi stavano scendendo le lacrime. Poi lo squelcia non c'ha dinamica, cioè lo metti a filo che tolga il QRM, poi parla uno che ne so che arriva a 9 e lo squelcia lo chiude. Non c'ha dinamica, dai, cioè per quanto tu lo metti al minimo ti chiude i segnali medi, ti richiude lo stesso. Paracchino è quello, va? Giusto per la concessione per mostrarlo in caso di controlli, prima del 3009 quello l'avevo preso, 3009 l'avevo preso dopo. Già lo so, aspetta, attacco il microfono normale, che gli ho cambiato la capsula, vediamo se mi senti meglio o peggio. Ecco qua, tolto tutto, autoascolto, tutte le manatte inutili. Gianni, c'è ancora? Ehi, allora, ci sono, ero al telefono, me l'ho chiamato. Vabbè, dai, io però vi saluto, dai, che qua sono occupato. Ci sentiamo alle prossime, non so fra quanto. Ok, massimo per 2 settimane. Ehi, ci sentiamo. Ciao Gianni, buona serata, buon tutto. Alle prossime. Ciao. Allora, questo è il microfono normale. C'era un telefono, è molto meglio, che chiaro. È terribile, Antonè. Cos'è il mic originale? Terribile, bruttissima. Sì, è l'originale, però è molto più chiaro, della capsula sua. Perché l'ho cambiata e c'ha i toni alti, metalli che rimane, però è capibile, ma quella proprio sua originale è orrenda. Sembravo dentro una pesatrice, sembrava, faceva schifo, almeno questa che è capibile, alta, però va bene. Sì, è capibile, ma è di un brutto, Antonè. Ero convinto fosse la capsula originale, è veramente brutta. Aspetta, adesso che passiamo con la nota 87, così cambia tutto. Gianfranco, sei tu? Qualcuno che ha chiamato, forse ha chiamato, non è uscito in radio, sta regolando. Allora, questa è la nota 87. Dovrebbe essere una nota cosa, una nota rumba. Sì, adesso sì, mi accendi tutti i LED, però è generoso e non fa testo, lo Smitter non è affidabile qua, cioè è inutile anche che li mettano, vabbè. Questo è quello, che usavo di solito, l'87, questo è molto meglio, come c'ha 20 watt quasi. 20 watt in AM modulati, sicuro? Che finali monta? Quanti finali monta? Chi siete? Quanti siete? Sì, ma dove andate? 31,66 e 23,12, perché gli avevo messo quelli e funzionava benissimo. 20 watt e tondi tondi a watt metto. Ma senza modulazione, così è? No, no, a manetta proprio. Poi guarda, aspetta, vediamo se mi ricordo qual è. Ecco qua, questo è il potenziometro del watt, guarda. Così sono sarà un watt e mezzo, non so. Vedi un po' come sto scendo? C'è una modulazione esageratamente forte, dai. Per la città, dico. Forte. Adesso col microfono palmare mi. Se li metto in salotto che c'è la Giovanna, ha voglia che cambia la cosa. Vedi, adesso con tutti i watt dell'apparato. Sa, prova minchiofono. Che microfono vile di serie che gli mettono, mamma mia. Che tu cambiaglielo. Che poi credo che sia condensatore questo. Non credo che sia. Lo devo vedere dentro, è la verità, magari sto sbagliando io. Niente di strano. Una volta che cosa avevo fatto? Avevo messo un mic normale su un apparecchio che ce l'aveva a condensatore di serie, ma non usciva di radio. Eppure i pin erano quelli, i contatti erano quelli, non si scappa. Vabbè. Vedi, in quell'apparecchio del Polma, microfono, la capsula del microfono normale non va bene, non funziona. Ci vuole per forza una capsula differente. Dai. Oh, che palle di serate. E allora? Ogni tanto faccio il cambio dell'alimentatore. Adesso sto usando quello con la ventola. Però mi distrae dalla ricezione. Mi distrae un sacco dalla ricezione. Senti questo... Giù di questo e mi senti? Sì, cioè è una ventola normale, non sta ronzando né nulla, però mi piace un alimentatore silenzioso, tipo quelli come quello che ho preso, che switching ma ventola non ne ha. C'ha pochissimi ampere, 7 continui, 9 di picco, ma bastano e avanzano. Fino a 30 watt continui li regge. Mi pare di averli provati in FM, 30 li regge. E quindi cosa... qua ne usiamo 4 in AM, cos'altro vuoi mettere? Io sto usando il 20 ampere nell'857D. Invece... sto pilotando anche questo. Invece nell'altro ci ho messo quello piccolino provvisoriamente, perché devo controllare l'alimentatore, mi stava dando l'onzio alternata e evidentemente c'è qualche condensatore in perretta, capito? E lo controllavo. Questi gatti vedrai che me li faccio arrosto qualche giorno. Aspetta che faccio il vecchio, li lascio lì, quei gatti lì, vedrai già che ci sono i cali randaggi che ogni tanto ne fanno fuori uno. Molti paesi anche se li mangiavano, certi quartieri. C'erano periodi di emigrania che non vedevi un gatto randagio in strada, tutto si mangiavano, gatti e piccioni. Quello era pissi, se non mi ricordo male. Io un periodo sapevo Olmedo. Poi dipende dalla fame, capito? Non sono tutti che vanno a mangiare i gatti, poi non ce li abbiamo come animali da compagnia. Così è. I cinesi già si mangiano di tutto, dagli insetti ai pipistrelli, cani, tutto si mangiano. Allora, e poi c'è allora che piccolo? Boh, così dicono. Le razze asiatiche, poi anche lì ci saranno le eccezioni, no? Ci sono le bambole di gomma, di tutto usano. Se tu vai alle specs, ci sono anche le macchine belle adesso, elettriche, 2.000-3.000 euro, quante ne vuoi ce ne sono? Bambole gonfiabili giapponesi, anzi non gonfiabili, bambole per, non bambole, robot per i puppi. L'uomo ha raggiunto la frutta è l'uomo. Sì, le ho viste, ma quelle fatte bene costano migliaia di euro, hanno la pelle real skin, tutto l'apparato completo, hanno anche l'ossatura in snodabile, hanno una specie di scheletro in materiali polimerici, dai, in modo che la metti nella posizione vuoi tu, allucinante. Giusto, i giapponesi ci potevano pensare. Poi i cinesi hanno copiato, credo che siano originari del Giappone però. Io mi sono dato il giorno, in offerta era, figurati. Gli ho detto, ci manca solo che ci mettono la crema per far allungare l'aggeggio di un metro e mezzo, siamo a posto in Italia. Posso usare il Viagra, ci mettiamo la crema. Noi cosa mi hai ricordato? Aspetta, a me sta dicendo mamma, aspetta. Ah no, non è a me il pesce, sta parlando con gente che c'è fuori. No, mi ha ricordato quelle fesserie che vendevano sempre i giornalini di vario tipo, questi tipo Oltretomba, mettevano in ultima pagina crema, nomi assurdi tipo Pene Maximus, che secondo loro metteva questa crema e ci diventava il doppio, il triplo, che fesserie. Come la storia degli occhiali a raggi X e tutte quelle altre menate della Same Govi che vendevano, le scimmie di mare, tutte quelle menate. Sì, c'è quello di parlare, sono quella cavera quella la parità per il vino. Ma anche in vita ridicola quella per tipo di giornale. Io ricordo che c'è mio padre di comprarla. Io ti parlo degli anni 75, 80, era pieno di tutti, di quei giornali che lo cavera, di tutto vero. Tu capoci, se potere fare scherzi al telefono, di tutto vero. E poi c'era la crema Vigor per far venire i muscoli. Crema Vigor si chiama. Ci facevano vedere un disegno dove in spiaggia c'era uno magro, curvo, tipo me, per non dire gobbo. E a fianco il tipo tomoscoloso, no? Secondo loro tu ti spalmavi questa crema regolarmente e ti venivano i muscoli, sì. Così è fertilizzante. Sì, si dice che in America ti mettono anche gli occhiali, le cose. Da poi quando si è grossato, adesso mi è venuto i pompini, è tagliato. Allora, non so se dipende da me, ma sai leggermente come è saturando. Fammela ascoltare bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, però non ho capito se sia... fa un passaggio molto lungo. Aspetta. Adesso già ci so. Se ne lascia la potenza zero di colpo dell'apparecchio. La tua colpetta adesso già sta funzionando, era un bel po' di tempo che non lo stavo usando l'apparecchio, questo qui. Ah, colpetti funziona con l'apparecchio. Porca miseria. Gianfranco, sei rientrato interrogativo? No, è sparito. Avrò avuto un impegno urgente, telefonate, eccetera. Bene, che dire? Sì, dove ti ricca? Non c'è più un tubo, non c'è che... Oramai come gli altri più comprare apparati, gira, là. Prova. Era un pettuso ieri, 100 euro. Quel baracchino. Su internet. No, ma su Facebook dove vendono la roba, capito? E lo vedi, 100 euro, più c'è una tappalatti in vendita, tappalatti lineari. Quando l'ho vista gli dicevo, vabbè, fanculo, quella cazzo spendo 100 euro per un baracchino. Non è meglio che me ne mangio. Aspetta, che metto, io non so i 4 watt se siano così, poi c'è il filtro, si mangerà un watt sicuramente, in teoria dovrei essere un 4 watt al baracco, poi quelli che escono dal filtro non si sa, e scalda questo, e scalda abbastanza. Sì, stai scendo bene, Aurelia, ci mancherebbe. Però è inutile spingere inutilmente, scaldare inutilmente, comunque anche con 4 watt scalda. Questi sono tutti miniaturizzati, cioè c'è una scheda piccola rispetto al 3009. Come mai te l'hai preso quello? Ti bastava il 3009, come baracchini. Ne hai un armadio pieno, ne hai, il giorno che ti metti a vendere in piazza Fiume. No, anche molti li ho dati, Antone, di quelli che avevo una volta li avevo scremati, il 500S, il 548SX, il Viking 2, il 4000 Echo, e cos'altro avevo dato? Ma il Midland 48XL, come si dice, Alan 48XL Multi, quello mezzo col display digitale e lo smitter analogico, un po' di roba avevo fatto fuori, tutta roba. E via. Ma questo, guarda che non è recente questo, ce l'ho da un po', Capo. No, e cosa già ce l'ho ancora? Il quadrispotolina ce l'ha Giovanna con la macchina del 2009, e la FM500 ce l'ho qui. Poi cosa, Battista mi aveva dato un baracchino per pezzi, gli mancava l'attacco del PL e altre cose varie, ho preso, le ho riagganciate, funziona bene, gli ho messo il microfono del FM500 originale, l'ho regalato a Giuseppe, il, come si dice, lo Zodiac 5036, per esattezza. Zodiac, quella marca, ma esiste ancora la Zodiac? No, non credo. No, l'ultimo Zodiac che avevo visto era c'era Melchioni, non riusciva mai a vendere, non ce l'ho detto, ma quanto ne vuoi? Tu dici, no, c'è 50 euro, ho detto, ascolta, tenitelo di lì e magnadilo, gli ho detto, vai. Ma l'ho detto, se me lo vai, sono 70 euro, io adesso in contante, gli ho detto, me lo porto via. Era prima che stava chiudendo, non me l'ha voluto dare, no? Tanto per dire, ho detto, io certo io non lo rispetto, e passa per questo apparecchio qua, mi dispiace, ma è roba vecchia di 15 anni fa, sarebbe budi e giusto, però così ho detto così a casa. Sì, anche su internet lo fanno, tipo New Old Stock, cioè vendono tipo i President Jackson di metà anni 80, e dice che sono ritrovati in magazzino, chiusi, sigillati in scatola, cioè non roba usata, però i condensatori in che condizioni sono, gli elettrolitici, c'è roba non accesa per 35 anni se non 40, voglio proprio vedere come funziona, anche perché ti scrivono, l'apparecchio viene venduto così com'è, cioè di non rompere le scatole dopo se non va, pare molto aleatorio sta cosa, ma... Sì, bisogna vedere quanto ne voglio, a me mi volevano 50 euro, questa va tanti anni fa. Sì, cioè se tu vedi il prezzo in euro e ti fai il calcolo in lire come se fosse il doppio, è come se lo stessero vendendo al prezzo del nuovo di quasi dell'epoca, cioè prezzi, dice, da amatore, è amatore ma fino a un certo punto. No, ma non conviene prendere di quelli, avevo visto anche un Alan 88S nuovo di vetrina, proprio di scatola, roba che viene recuperata chissà in quali magazzini di negozi o di cantine, magari i negozi falliti che avevano chiuso, che avevano messo roba in cantine, in roba da parte, dai. Ah beh, quello sì, bah. L'unico che può me comprare quella roba lì è quella polettana, vai lì, e ci ha mettito tutto e mi ha tutta questa roba. Hai capito? Non gli fa l'offerta così. Se va bene, se te la devi conto in pratica. Oh, poi se uno è bravo, c'è alla fine cosa scovinare a star fermi. Gli elettrolitici, uno che sa metterci mano, se li cambia tutti, se li cambia i connessatori. Per il resto non credo che ci sia molto da cambiare. Una lineazza li fai, cosa ne so io. Però i prezzi sono alti. Per un hobby che è quasi al traguardo, al capolinea, volevo dire. Beh, vabbè. C'è gente anche che aveva collezioni di Aigen Quinto funzionante, Major Echo funzionava 3, 4, 5, 6, capito? E li vendeva però anche a 500 euro. Per gli amatori, per i fissati, come vuoi chiamare, per i gonzi, non lo so. Poi non spendo su di così, no. Non spendo roba del genere. Mi sono arrivato io, non spendo per nient'altro, quindi l'unica cosa che mi sono preso è il lineare. Quella transistor e boh, quella valvola io ce l'ho, poi c'ho anche quell'altra valvola, quindi la voglia è roba, non essendo altri soldi, no. L'unica cosa che mi sono pentito è aver comprato quelle ZX40, solo quello mi sono pentito, avrei saputo me li avrei mangiati quei soldi, cioè sicuramente l'ho fatto per tenere a casa, nel caso arrivassi controllo, se usavo quello provavo quello, boh. Se no sono due ore, manco spesso. Me l'avevi mangiati. A parte che l'hai pagato un betto. Era costato abbastanza, ma io adesso non mi ricordo se l'avevo preso da Fusaro o se l'avevo preso online, perché online una volta c'era un'offerta stracciatissima, tipo 50 euro spedito, roba del genere. Tu l'avevi pagato con la spedizione quanto? 98. Esso Maria, ma vi ho detto 20 euro di spedizione, ma quello è da ladri, a meno che cosa ti hanno fatto, spedizione assicurata o era spedizione ordinaria, perché quello è proprio soldi rubati, eh. 20 euro te li può chiedere, che so, spedizione assicurata te li può chiedere Media Globe quando acquisti roba da 250 euro per esempio. Sì, circa 2,50, 20 euro di spedizione assicurata, però se perdono il pacco o te lo rubano le poste, dovrebbero rimborsarti o quasi tutto o gran parte della somma, poi non lo so. C'è gente che non è stata nemmeno risarcita dalle poste, con scuse varie, tutto uno schifo. Il pacco era di Amazon, capito? L'ha portato il corriere, l'SDA. Di Amazon, caspita, 20 euro di spedizione. Bubu. Andiamo bene, andiamo. Sì, me l'ha fatto vedere Giovanna quando è arrivato. Mi ha fatto vedere anche la fattura, ma sono l'altro. Ho detto tutto che sono esauriti. Poi già ho controllato, già era così. Aveva palizia. E tu cazzo mi sembra tanto 20, 23 euro di cosa, di tubù. E costava 70, e poi ho controllato bene e ce ne volevo altre 23 di spedizione. Con la scusa del capitolo del Covid-19, quindi cioè, adesso la roba è aumentata. Adesso è finito tutto, hai capito? Ci hanno sceso in vaso un bel rigetto, non l'hai visto, per gli apparecchi. E se non li prende nessuno, con la scusa che tutti quanti entravano alla baracchina, hanno bigliato, chi ci aveva stato un becco, pagato magari 150 euro, tutto per 300-500 euro di voi. Adesso è finita l'era. Sì, con la scusa che tutti entravano, ho alzato il PMR un attimo, mi ha fatto sordo. Ho alzato il volume, sentivo silenzio, poi allora ho riabbassato, da tanto non riesco a seguire due cose. Caro Antonello, se tutto va bene siamo rovinati. Se tutto va bene siamo rovinati, sì. Ci chiudiamo di nuovo in Sardegna, come prima, andiamo solo a fare la spesa e beh, facciamo la fila della mattina presto. e tiravamo in barca, tiravamo il luogo tutto, e la gente andava a spacciare droga la sera. Sì, tanto io non è che stia facendo molto di più che commissioni, anche perché l'altra sera, varie sere fa, sono tornato a casa e mi sentivo veramente male, avevo il cuore, ambulanza da qua è partita, come mai? Vede qualcuno si è sentito male, interessato. C'era un periodo quando c'era il Covid, ogni tanto arrivava l'ambulanza qua vicino, cazzo mi sembravano marziani, cazzo, quando scendevano l'ambulanza, tutto con questa tuta bianca, con quella, il coppe scarpe, gli occhiali quelli che usa la moglie di quello del pizzicotto, cazzo, quelli da sub. Sì, sono tipo gli occhiali Scott, quelli per isolare proprio gli occhi, no? In caso di colpi di tosse del malato, e loro rischiano forte, in periodo Covid loro rischiavano forte. Poi con queste mascherine chirurgiche, certi, no? Cioè, negli Stati Uniti per il Covid venivano gli infermieri, sì, le tutte bianche, i guanti, quello che vuoi, però avevano le maschere integrali. La maschera pieno facciale, integrale, capito? Con lo schermo, però tutto il viso era completamente isolato, quella col filtro P3 o P3 nostro, loro hanno l'N100, non lo so, non so quanti nanometri riesce a filtrare, ma adesso non mi ricordo le misure, vabbè. Comunque se devo ribigliare l'obbligo, ma te signora, adesso da poco entriamo nell'inverno, ne vedi gente che comincia quando se c'è un po' di raffreddore a pigliarsi la tachipirina, se no manco va a lavorare, te lo dico io, se lo mettono in quarantena. Comunque se ne sta fregando la gente, vabbè, capisco che questa è una cosa anche pilotata, Antonè. Questa storia del Covid, diciamo, per farla breve, è servita a vedere dove potevano spingersi, è quello che la gente può sopportare, e vedono che l'italiano continua a prenderla lì dietro, quindi dice sappiamo che in futuro potremo fare ancora di più. Vabbè, non sono discorsi che voglio fare qua, comunque, sono discorsi già fatti. Allora, ce ne andiamo all'asina ad abitare, guarda. Vabbè, l'ho visto, dove non c'è manco un cane, lui sta tranquillo, non ti prendi nulla. A meno che non ti prendi la mattina dell'asinello, che ti si allunga. Eia! Ah, sai che ti vuole Simona? Eia, vai, vai. Sono rientrato. Sentivo scariche tipo come se ci fossero fulmini in lontananza. Tu che sei in alto, cosa vedi all'orizzonte? Nulla, c'è l'Olimpico, c'è. A meno stasera. E allora non è fulmine, dai, sarà roba elettrica. Casalingua. Capito? Qualcuno magari ancora ha messo un po' di, come si chiama, condizionatore, no, ma dentro casa non c'è il tanto, ormai no. No, c'è freschetto, ma male adesso. Ah, tu avevi rinnovato l'offerta, no, da poco, a proposito, oggi doveva rinnovare l'offerta dello smartphone, no, per navigare, hanno avuto problemi tecnici, e non hanno potuto rinnovare l'offerta. Il credito c'è, però non dice, per motivi tecnici non è stato possibile rinnovare la sua offerta. Mi ha chiamato anche il centro assistenza di pazientare. Hanno detto, per me potete pure non rinnovarmi di offerta. Io ho caricato quello di Simona, cioè non caricato. Ho preso che la mobile, 10 euro, vado a controllare il telefono, ce ne avevo 12, ho preso e l'ho regalato ai miei nipoti quei 10 euro della che la mobile, capito? Che una mobile hai detto? Ah, ok, quello di Tim sarebbe, è l'operatore virtuale di Tim, e come va, bene? Sì, 5,99 pago, anche con la Tim la stessa cosa. Io un po' di più. Sai perché? Io avevo l'offerta a 7,99 mi pare, o 6,99, poi per 2 euro in più l'ho portata da 30 giga mensili a 50 giga, perché alla fine, in fin dei conti, tra video di YouTube eccetera, finivo i 30 giga prima della scadenza, oppure arrivavo giusto a filo. Con 50 giga puoi stare sempre a vedere video YouTube anche alta qualità, soprattutto quelli, vabbè, non so se ti piacciono, quel genere scritto sci-fi, sono dei brevi filmini di fantascienza, dai, infatti anche in computer grafica, roba del genere, belli, inquietanti, molto carini. No, quella roba io non le guardo neanche. Adesso devo sistemarmi il computer che devo fare, che lo aggiorno. Poi dovevo comprare l'antenna, quella che si usa per il wifi, che si è imballata, è entrata acqua e quindi il segnale gratis non ce l'ho più, hai capito? Quindi allora compro quell'antenna lì, da 2 giga. Ah, sì, è la maniaco! Ebbè, un sciattolco. Sì, certo, ciao Marco lì, buonasera a tutti. Ciao Manuel, ben sentito, una bella modulazione forte. Ascolta, beh, l'antenna l'avevi poi, eri riuscito a metterla sul tetto, oppure... No, è sempre lì, Marco, sempre lì, no, non la posso mettere su perché è precario il muro, capito? Sono tutti muri pericolanti e quindi fanno fare danno e pagare danni io non va bene. Piuttosto l'ho messa lì e sono tranquillo. No, non c'è modo, boh, è una cosa tipo... vabbè, bisognerebbe vedere com'è fatto. È una rottura, amico, queste antenne, se non c'è appiglio, meno male che qua c'è il terrazzo, qua ci puoi fare ballare, fare di tutto. L'ho messa sul gabbiotto centrale e poi c'era dal 92, io ci avevo dal 92 una boomerang, che non ti dico com'era, a pezzareddi era. Ho tolto quella e poi il palo era nero, nero dall'ossido, ho cambiato il palo e l'antenna. Nel 2000... Antone, che anno era? 2000, almeno la Ringo, la prima cosa messa, 2004, 2005, può essere, 2003? Mi sembra che era 2004, perché poi l'avevi cambiata dopo poco tempo, avevi cambiata, poi avevo messo la B27L sopra, che tu mi hai detto, ma non ci salire sopra che è pericoloso, gli trovo appunto il dito, sto salendo io. A salire, vabbè, a scendere il campo attento. Se non c'è le scarpe giuste, sai come ti trovano giù direttamente? Io non volo biglietti. No, ho detto fesserie comunque, Antonello, ho detto baggianate. 2014, non 2004. Ehi, sono entrato nel 2010, modulavo dalla macchina, 2014. Poi la Ringo, per disperazione, l'avevo tolta dopo un anno perché non... si era mollato anche lo stilo da quell'isolatore, rischiava di cadere. Eccetera. Sì, questa è molto molto meglio, finché dura, è come la BA27L, alias Silver Road, tanti nomi c'ha comunque, la vendono in tanti paesi con tanti nomi. Riprendi Manuel. Ti stavo dicendo, Marco, perché ti arrivo basso anche se ce l'ho in terra? No, assolutamente, è che sto usando lo smitter a LED, no? E non riconosco i segnali con questo. E qua mi segna un 9P10, però non è affidabile, capito? No, tu arrivi bene, tu arrivi anche 9P20, mi da col 3009 arrivi anche 9P20, dipende magari quale apparato usi, quanti watt stai usando, è ottimo il segnale tuo. E figurati se la metti sul tetto, certo, non c'è possibilità di fare una cosa tipo un palo di lato al muro, tipo Natalino, non si può fare lì, no, è pericoloso. Allora, io l'ho portata su, la devo piazzare su, Marco. solo che il problema non era anche i muri pericolanti, era il problema che entrava nelle televisioni, capito? Ho provato sia da una parte sia dall'altra, alla fine mi sono rotto le palle, ho preso, ho buttato tutto giù, ho messo lì due zanche, poi ho fissato al muro, nel muro del giardino, e tirata su 6 metri di palo. E lì non dà problemi, capito? Lì non dà problemi a nessuno. Non volevo avere problemi con la gente, capito? Ah, per il TVA, è un peccato però, è un peccato. Quella è una rottura di balle, perché poi... Lo sai come sono i vicini, no? Prima magari ci vai d'accordo, come metti l'antenna nel baracchino, se la prendono a offesa personale, non ti salutano più, ma lo sai come la gente, no? Grazie a Dio che qua ti guai nulla. C'era un periodo che, ma secondo me era uno scherzo fatto. Per il resto, già da me. Oh, io cambio apparecchio, questo sta, è buttendi, cioè metto la mano e mi brucia, non riesco a tenere la mano. Un attimino e cambio, riprendi Antonio, riprendete voi due. Mettici la ventola sopra, vai Antonio. Una ventolina ci vuole, ventolini cinesi, di quegli apparecchi VHF che vendono, che c'è la ventola manco 3 centimetri. Ma guarda, sì, buon pene, la massa deve invadere, si sente il vento, ma un elicottero va sotto. No, c'è la ventolina del coso, è il mercatore cinese, non sto pompando nulla, no? Tranquillo. Ma che microfono, ma hai cambiato microfono allora? Sto usando l'ala 87 con microfono palmare, il Densei. È forte la radio, se però c'è questo cavolo di ventola che ti rompe le scatole. Lo so, non ci posso fare nulla, dimmi. Aspetta un attimo. Eccomi. Per abbassare il volume, se non rientra. Questo è il 3009, vediamo il segnale, Emanuele. Venga, esci bene anche con quella radio lì, Perfetto. 9.10, 9.15, segua. Allora, il tuo segnale, diciamo, non è 9 più 20, è un 9 più 15, ecco, 9 più 15. Comunque ottimo, cioè, per essere in basso l'antenna in quella zona tua è di lusso. Ascolta, in distanza tu, dove sei riuscito ad arrivare? Per esempio Alghero, se hai contattato qualcuno, hai provato, hai mai provato? No, negativo, sinceramente no, ma Marco, non lo so, e sempre qua in zona la gente muro, ci siamo sempre noi, gente di Alghero no, perlomeno. Sì, lì siete molto vicini, la rotta del 23 è molto molto vicini. Poi vabbè, a Porto Torres d'altronde non c'è più nessuno, c'è stazioni serie, una volta c'era Sandro, fino a quanti mesi fa? Un anno fa, un anno e mezzo, due. C'era Sandro che era dove c'è l'ancora, è presente produttore dove c'è l'ancora, e sopra Balai, sopra la chiesetta, la piazzetta di Balai, lì era di lusso quella posizione. Però poi lui credo abbia cambiato casa, poi non entra nemmeno più, un peccato. Anche per avere un riscontro di segnali era... Sì, a fianco al ristorante, dai. E quella era una bella posizione. Pensa addirittura che un periodo lui ha messo la Game Master, no? Modello lungo, no? Quella 5 ottavi. E siccome lui è fronte mare, il vento era talmente forte, poi non so se c'entra qualche installazione sbagliata, magari, non lo so, gli era spezzata alla base del tubo, no? Dello stilo, chiamiamolo, del tubo. Ho capito. No, ma io non lo so se ci arrivo Alghero, non lo so Marco, non lo so perché, ti ripeto, siamo sempre noi, tutto sempre la zona di Sassari. La zona di Sassari penso che mi ascolteranno dappertutto. Sì, a Sassari non è problemi, proprio Sassari città e dintorni, tipo le borgate, no? Sassari, ma hai già capito, Ottavoli, Punti, è vicinissimo, è praticamente città, non c'è problema alcuno. Però è sparita molta gente, prima c'erano più persone che entravano dal vero, quasi tutti i giorni. anche più persone a Pro Torres, entrava di più Antonello da Ossi, entrava Coso da Muros, entrava anche Francesco da Osilo dei paesi dei dintorni. A Bano non c'è più nessuno. Come ho detto prima, amiche, la 27 sembra che stia arrivando al capolinea proprio. Poi adesso che hanno liberalizzato le concessioni, no? Qualcuno credeva che entrasse la gente a raffica, no? Non veniva tutti a nessuno del baracchino. Ormai ci sono i social che sono... Non devi tarare antenne, non fai TVI, non devi regolare minchiofoni. Quello sì, Marco, quello sì, vedi. Da quando sono usciti questi telefoni, i computer, è normale che si sono staccati parecchia gente. Però se c'hai sempre quella voglia... Quella voglia, quella cosa ti posso dire, ma di avere sempre le radio, ti viene sempre di metterti all'antenna, fai, ridispi, ma sai quante volte io ho venduto tutto e poi ricomprato, perché me ne passava la voglia, dopo un po', un paio d'anni mi riveniva, donna mi tirava in su, e dai, ma metti qui, metti là, cazzo, devo andare a ricomprare antenna, radio, balle varie. E infatti, diciamo, vendere tutto, togliere antenne e cose è un po' un errore, bisognerebbe tenere sempre qualcosa di scorta. Per esempio nel 2010, quando io ho provato a affacciarmi a vedere chi c'era, c'avevo ancora la Mondezza degli anni 80, Mondezza per modo di dire, no? Cioè baracchini che usavo negli anni 80-90. Solo l'antenna era distrutta, quella boomerang era cambiata. Modulavo della macchina provvisoriamente, poi quella roba l'ho tutta adatta, quella roba vecchia, no, vecchia ma funzionante, cioè funzionantissima, nonostante che è rimasta quasi 20 anni ferma, funzionava tutto, è incredibile. Figurati, ma adesso la sto usando, ce l'hai sul tetto adesso l'antenna, Omar? Sì, credo che siano passati 5 o 6 anni ormai, no, 5 credo, sì, c'ho la stessa che a Tonino, credo, la Energy 5 ottavi, quella che ha 3 radiali lunghi 1,30 m. Quelle vanno bene come antenna, vanno bene. Io ti ripeto, 30 anni fa, qua su, quando stavo con mia madre ancora, c'era una Mantova 1 e usciva da tutte le parti, mi ascoltava l'Alghero, mi ascoltava la Russia, mi ascoltava Porto Torres, non c'avevo problemi di farmi sentire. E mi sentivano da tutte le parti, nella zona che ero. Sì, ma poi la Mantova sono di classe superiore, è più pesante, però tiene più watt, è più grosso lo stilo, quindi ci avrà una larghezza di banda superiore, no? Cioè ti tiene, anziché 120 come questa, te ne tiene 200 di canali, con stazionarie ancora buone e ragionevoli. Questa, vabbè, io più di quella cifra non volevo spendere da GBC, 90 euro. Io a spendere 150 euro per un'antenna dici di baracchino? Assolutamente no. Ho voluto prendere la più leggera e la più economica. Anzi, non la più economica, perché ci sono antenne 5 ottavi ancora più economiche. Guarda, gliene deve arrivare una da Media Globe, la Venom 5 ottavi, che è una 5 ottavi lonfia perché è più corta del normale e ha dei radialini da 40 cm, no? Ma loro dicono che è pur sempre una 5 ottavi, è 38 euro solo, più la spedizione. Non si sa che cosa ne uscirà, però è da provare, sarebbe mio. Adesso Marco, adesso... Vabbè, comunque, dai, è importante farsi sentire, anche se c'è l'antenna in terra, dai. Venga, sai cosa mi frega a me? Il cavo, perché io ho quello grosso, no? L'RG213, però sono 50 metri, eh. 50 metri sono me, perché io sono a piano terra, praticamente. E si deve fare tutti i piani del palazzo e deve fare tutto un giro strano, totale 50 metri misurati, Questo figurati, Vabbè dai, sì, io ne approfitto per staccarmi, Mascolis, ci sentiamo, dai. Adesso ha cambiato comunque. Il segnale, vediamo un po' anche la radio. Vedo un po' la modulazione. Sì, adesso sei 9 più 20. 9 più 20 pieno. Prendila per buona perché qua è, la differenza è decimillimetrica, io lo dico sempre a scanso di equivoci. Modulazione, fammela sentire, un po' più metallica, forse ha aumentato la modulazione anche. Sì, vedo un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sì, 9 più 20 pieno. E quindi no, non ci sta problema. Ma voglia, altro che Sassari, io dico che arrivi anche Alghero. Se ci fosse un interlocutore con una stazione buona, cioè favorevole anche un po' per Sassari, però stanno sparendo tutti. Poi sa cos'è Emanuele? Adesso dai, adesso ti lascio andare, vediamo se Pomponi è rientrato. Che molte persone magari grandi che c'hanno tanti anni non hanno nemmeno più voglia di continuare a stare in 27. Cioè, c'è gente che c'è dagli anni 70, e quindi dopo una vita intera 27 dice, beh, adesso la 27 me ne è scesa. Poi sai, tutti magari gli amici di allora sono venuti a mancare, quindi è così, purtroppo, così è la vita. Va bene Emanuele, dai, ci sentiamo, buon proseguimento di serata e buon tutto. Vediamo se è entrato Antonello. Ciao Marco, dai, comunque vi faccio quelle e poi mi guardo un po' di televisione, dai. Buona continuazione di serata. Ciao Marco, ciao Antonello, se rientra. E adesso Antonello si è attaccato alla bionda mia, alla lattina o alla bottiglia. Non torna più, no. Mico, me lo provo chi entra. Caga la birra, via Antonello. Allora. Ha chiamato Simone, l'ha chiamato e gli ho dato la cena. La bionda è stata qui, ma ce l'ho vicino, ce l'ho qua, ma la sto bevendo piano piano. Grazie, l'uomo birra, eh? Uia. No, a me piace quella limone, perché è più dolcina, no? Però la birra normale non mi scompiffera. Mi piace quella al malto, quella più dolce, triplo malto, doppio malto. Ah, quella che è buona, sì. Se la mai ti giù di petto, ti faccio vedere Tiziana, vedrai come altro che birra è quella. Io so che quelle birre rosse spesso le caricano di gradazione alcolica, comincia a salire, capito? Non sono più quei... quant'è? 3-4 gradi la birra, dipende che birra prendi, comincia a salire parecchio, 5-6, certe poi arrivano a 12. La birra del demonio, la birra del demonio, quella ti cuoce, una bottiglietta da 33, già ti dà la testa. Poi io non sono abituato, già lo sai, no? Io a me non ne bevo alcol, meglio sto. E già lo so. Già la bevi, sono qualche volta la birra. Non molto, ma già la bevi, chi ne usa, almeno quella è buona. Ma è per far compagnia, mia Antonè, capito? Per far compagnia, cioè per non stare a prendere due bibite di due cose diverse. Però io quando sono solo, mai, non mi vedrai mai al bar pigliando birra. Io ho caffetteria, pure bibite di altro tipo, ma alcolici no. A casa beh, mi posso bere un limoncino, un amaro. Poi se so che devo guidare nulla, neanche una goccia, perché di questi tempi si stanno allargando un po' troppo con questi controlli. Poi se succede qualcosa, anche se sei nella norma e succede un piccolo incidente, apriti il cielo a me. Quando ti ferma, aspetti, dobbiamo fargli il palloncino, e tu dici guarda che sono positivo al COVID, cosa come fare? Mi fai il palloncino o glielo fanno all'in ospedale? E dici al controllo, guardi che le tossisco in faccia, la contagio me. Porca miseria, che storia, guarda. E io che prendevo in giro gli asiatici, ho detto ma perché questi cinesi giapponesi sono sempre con le mascherine, con la museruola, a me. Intanto è arrivata da lì quella roba, capito? Poi che sia fatta in laboratorio, che sia fatta dalla natura, non si sa. Fatto sta, sempre da lì arriva, le influenze, tutto da lì arriva. Sì, c'hanno un casino lì, non si vede, addirittura quando ti metti dentro a casa, vai, non si vede a 120 dallo smog che c'è. Tutte le acque sono tutte inquinate, no, per carità, guarda. Eiaia. Bene, bene, bene, bene. E poi, vabbè, gli altri non sono rientrati, cosa sta facendo roba? Gianfranco.